7. Ascolta e controlla. 1. Non puoi entrare in classe in ritardo. 2. Chi può aiutare la professoressa? 3. Chi vuole telefonare a Maria? 4. Loro non possono guardare la TV oggi. 5. Non posso uscire stasera. 6. Puoi aspettare un momento?